tanto triste amor, il saddio. Stasera tremo in pietà, o cuore mio. Ma dolce, dolce, dolce, era nel vaso. Dolce. Dolce. Per te saranno giorni comandati. Per me saranno un mondo che è fatto. Ma dolce, dolce, dolce, era nel vaso. Dolce. Tempo passerà, una tomba ti stringerà, allora tu forse tremando ricorderai come ha chiamato chi sto chi è tuoi sta bocca tua. Tanto triste amore dirza di stasera tremo in pietà, o cuore mio. Ma dolce, dolce, dolce, era nel vaso.